Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dopo il terremoto dell'Aquila, ogni canale promuoveva raccolta fondi per gli sfollati. Nessun canale era escluso da iniziative del genere. Tutti per l'Abruzzo, tutto per l'Abruzzo. Al supermercato, alle poste, in banca, dal benzinaio. Non c'era verso di scampare i gesti di solidarietà. Mi sentivo inondata dalla solidarietà e anche le persone intorno a me erano diventate più buone. Tutti in partenza per i terremotati, da ogni parte d'Italia. Ma al sud è un'altra storia. Se la sono cercata, l'incuria, la corruzione, l'abusivismo da parte di tutti. Probabilmente è questo il pensiero che determina questa indifferenza. Sono proprio arrabbiata. Sono furibonda perché il sud sta nel fango sempre e comunque, acqua o non acqua. Sono davvero fuori di me e sto usando una perifrasi che mi permetta di evitare un linguaggio scurrile e non radiofonico. E sono anche molto triste. Eleonora. Cara Radio 24, particolarmente vicino al dolore dei messinesi per la tragedia che li ha colpiti, essendo anch'egli siciliano, il presidente del Senato, l'onorevole Schifani, ha affermato che dopo quella con la mafia e quella con le note carenze strutturali, i siciliani sapranno vincere anche questa sfida. A me sembra piuttosto che finora i siciliani, e con essi tutti gli italiani, abbiano soltanto perso, eppure parecchio. Le uniche cose che in questo stramaledetto paese continuano a vincere, dopo ogni strage e ogni disastro naturale, sono l'oblio dei cittadini sudditi e l'impunità dei colpevoli potenti. Nuove ricostruzioni ci attendono. Lettera firmata. Cara Radio 24, vorrei parlare delle condizioni in cui versa la città di Napoli, dove purtroppo per me vivo e lavoro. Ci si è abituati a pensare a Napoli come a una città dai grandi problemi irrisolti, davanti ai quali i poveri amministratori possono fare ben poco, perché lasciati soli dallo Stato, perché ci sono situazioni ormai incancrenitesi col tempo, eccetera. La solita solfa. Non si parla mai però dei problemi di gestione, che invece qualunque amministratore degno di questo nome dovrebbe poter affrontare. Strade principali perennemente sconnesse, nelle quali le buche vengono segnalate infilandoci bidoncini della raccolta differenziata della carta. Intere strade chiuse per mesi per colpa di una piccola frana da 2 lire. Assenza totale dei vigili urbani nei punti in cui si sviluppano ogni giorno ingorghi da girone dantesco. Un piano parcheggi gestito in maniera molto fantasiosa, istituendo una commissione sovrapposta e parallela ad un ufficio già esistente. Non proseguo, ma vi assicuro che esempi di pessima gestione ordinaria ce ne sono a palate. Cito questi perché sono problemi dei quali è facilissimo accorgersi. Basta farsi un giro in macchina per la città. Invece, sindaco e consiglieri sembrano presuntuosamente chiusi in una torre d'avorio, che non comunica con l'esterno. Gabriele. Gentile direttore. Da svariati giorni assistiamo da parte della RAI e delle televisioni della rete Mediaset a una campagna pubblicitaria soft che esorta i cittadini all'acquisto del decoder per la ricezione della televisione digitale terrestre, pena l'esclusione dai programmi degli utenti residenti nelle zone dove si sta passando al nuovo tipo di segnale televisivo. Io credo che sia stata e si sta mettendo in atto una grossa ingiustizia dal punto di vista costituzionale nei confronti del popolo italiano. Mi spiego meglio. Dal momento che la Corte Costituzionale ritiene il pluralismo un ineludibile imperativo costituzionale e dal momento che il diritto all'informazione discende direttamente dal principio pluralistico, è palese arrivare a considerare anche l'informazione come uno dei diritti fondamentali della società moderna. Il diritto al pluralismo e la libertà di informazione sono diritti garantiti dalla Costituzione italiana, che non si possono interrompere nemmeno per un istante, solo perché qualcuno ha deciso di cambiare modo di trasmettere il segnale televisivo. Quindi, prima dello switch off, passaggio dall'analogico al digitale terrestre, bisognerebbe assicurare il decoder a chi ne è sprovvisto. Pertanto, essendo la libertà di informazione un diritto acquisito, è chi fornisce l'informazione, cioè il consorzio del digitale terrestre in questo caso, che deve farsi carico della fornitura del decoder, considerando anche che paghiamo un canone alla RAI. In questi giorni non si parla altro che della libertà di stampa, ma non c'è stato un giornale che abbia parlato della libertà di informazione in senso lato e non c'è stato un giornale che abbia parlato dei problemi connessi per l'utenza durante la fase del cambio da analogico al digitale. Ma la libertà di stampa e di informazione riguarda solo i giornalisti o anche il popolo italiano? Per non parlare di un problema di fondamentale importanza che riguarda tutte quelle persone anziane che vivono di sola pensione sociale, che vivono sole e che vivono di sola televisione e che al momento dello switch off rimarranno senza la compagnia della televisione. Oltre a questo, dovranno sobbarcarsi anche i costi del decoder, del tecnico TV per la programmazione e della installazione del decoder e dell'eventuale impianto di antenna se non adatto alla ricezione. Sarebbe cosa buona e giusta che il costo del decoder, almeno uno per abbonato, fosse a carico del consorzio del digitale terrestre attraverso un rimborso che potrebbe avvenire detraendolo dalla dichiarazione dei redditi o tramite una detrazione sul canone RAI. Il problema del contributo per il decoder non riguarda solo la RAI, alla quale paghiamo il cosiddetto canone di abbonamento, ma riguarda anche le televisioni private e commerciali, che seppure non richiedano un canone di abbonamento, traggono profitti attraverso la pubblicità e i programmi a pagamento. Concludendo, dico ben venga l'innovazione tecnologica, ma venga solo se è a vantaggio dell'intera comunità. Cordialità, Giancarla. Gentile Radio 24, nel corso di Ballarò dell'altro ieri, il ministro Bondi ha più volte interrotto Rodotà imputandogli di essere un collaboratore di Repubblica, facendo chiaramente intendere che le sue argomentazioni erano viziate da questa sua situazione. Rodotà quindi espone i suoi punti di vista sul giornale Repubblica, del quale è collaboratore, non dipendente, ma per Bondi non è credibile. Vicino all'esimio ministro Bondi c'era il dipendente di Berlusconi, Carlo Rossella. Carlo Rossella è presidente di Medusa, una società di Berlusconi che produce film, ma in trasmissione non ha parlato di cinema, ma di Lodo Mondadori, Lodo Alfano e quanto è bravo, buono, dolce lavoratore popolare Berlusconi, che passa le sue serate a pensare al bene dell'Italia. Ma allora, qual era il ruolo di Carlo Rossella l'altro ieri sera a Ballarò? Di opinionista o di dipendente di Berlusconi? Franca. Gentile Radio 24. Magari il mio pensiero è un po' contorto, ma non capisco come si stia comportando l'opposizione rispetto alle modalità dello scudo fiscale. In pratica continua a dire che la tassa del rimpatrio è troppo bassa e che l'anonimato è un privilegio eccessivo. Tralasciando la soggettiva opinione di ognuno di noi sullo scudo fiscale, per la cronaca, reputo troppo blanda l'imposizione del 5% per chi rimpatria. L'opposizione fatta in questo modo produce l'effetto di allettare ancora di più il rimpatrio. Gli evasori potrebbero anche pensare, se l'opposizione dice che è troppo vantaggioso per gli evasori, evidentemente l'occasione è ancora più ghiotta di quel che ci dice il governo. E non capisco se è una cosa fatta apposta oppure se è una cosa non voluta. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Complimenti e buon lavoro. Lettera firmata. Gentile direttore, non infrequentemente, da ultimo l'astrofisica hack, si accusano gli evasori di tradimento della patria, di essere dei ladri, anche se, ma è sicuramente un mio limite, non ho ancora capito a chi rubino. Rubano allo Stato? Sottraggono denaro al fisco, come si suol dire, magari in buona fede? No, non rubano allo Stato, non sottraggono denaro al fisco. Infatti, soltanto se partissimo dal presupposto che tutti i mezzi di produzione appartengono allo Stato, come accadeva nei regimi comunisti, l'evasione sarebbe da considerarsi un furto che i cittadini compiono appropriandosi di parte del patrimonio pubblico. Infatti, dal punto di vista giuridico e morale, può essere considerato furto solo l'appropriarsi, in modo illecito, di beni altrui. E sono i cittadini e non lo Stato i legittimi proprietari di ciò che producono col loro lavoro. Quindi le tasse non versate allo Stato non possono essere considerate un furto, poiché ovviamente nessuno può rubare a se stesso in quanto si tratta di cespiti che in assenza del fantomatico ladro, cioè l'evasore, non sarebbero mai stati prodotti, sui quali di conseguenza il fisco non avrebbe mai potuto vantare alcuna pretesa. Si capovolgono le parti. Non è l'evasore a sottrarre denaro dell'erario, ma è lo Stato che sottrae risorse con la coercizione alla disponibilità dei loro legittimi proprietari attraverso le imposte, che divengono una sorta di estorsione legalizzata. Cordiali saluti, Alessandro. Vorrei parlare di un argomento estremamente complicato e difficile. Il signoraggio. Il signoraggio, definito anche la più grande truffa monetaria degli ultimi 300 anni, è la differenza esistente tra il valore di produzione della moneta e il valore nominale, il valore scritto sulla moneta. Il signoraggio era il guadagno del signore, cioè l'autorità che emetteva la moneta in metalli pregiati, oro o argento, derivante tra il costo del materiale e il valore nominale della moneta con relativa speculazione sul titolo del metallo. Vado al sodo. Produrre un biglietto da 100 euro costa allo Stato circa 30 centesimi. Chi guadagna quei 99,70 euro per ogni biglietto emesso? Verrebbe da dire lo Stato. Sbagliato. Lo Stato non emette banconote, solo monete, e solo sulle monete guadagna il signoraggio. Per questo motivo non abbiamo ancora la banconota da un euro. Chi ci guadagna dunque? La Banca Centrale, cioè la Banca d'Italia. Verrebbe da pensare che la Banca Centrale sia dello Stato e quindi ci guadagni lo Stato. Sbagliato ancora. La Banca d'Italia, come tutte le altre banche centrali, è una società privata. Da pochissimi anni abbiamo scoperto che i soci della Banca d'Italia sono le banche e le grandi assicurazioni. Perché le banche private, che dovrebbero essere controllate dalla Banca Centrale, quando sono padrone della Banca Centrale stessa? Perché lo Stato, e quindi il popolo italiano, che ha il diritto di stampare moneta, cede questo diritto a un privato e impone le tasse per pagare il debito pubblico? Perché la Banca Centrale fa produrre banconote e monete allo Stato, le paga al costo di produzione, 30 centesimi, per rivenderle poi allo Stato stesso a 100 più il tasso di interesse? Perché è stata rinnovata recentemente la convenzione con la Banca d'Italia? Se lo Stato, il popolo, si riappropriasse del diritto di emettere moneta, in poco tempo non ci sarebbe più il debito pubblico e non si dovrebbero più pagare le tasse, in quanto queste sarebbero già comprese nel possesso della moneta, i 99,70 euro del signoraggio. Perché si consente alle banche di guadagnare interessi anche sul denaro non esistente? Le banche creano denaro virtuale. Se una banca riceve un deposito di 100 euro, verrebbe da pensare che può esporsi con 100 euro di prestiti. Anche questo non è vero, perché per il fatto che la maggior parte del denaro circolante è virtuale, la banca può permettersi di sforare di molto questo limite. Abbiamo superato il comunismo, ma non siamo riusciti a superare questa forma di capitalismo. Chi sta dietro a tutta questa macchinazione e chi guadagna veramente? Piero. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.